di Frederick Brown, edizione completa di cui qualche mese fa, parecchi, forse lo scorso anno ancora, vi segnalai il primo volume. Nel primo volume erano raccolti tutti i racconti dal 41 al 49, un periodo di tempo particolarmente fecondo per il nostro autore, per il nostro fantascientista giallista. Frederick Brown, sapete tutti, è il morto nel 72, è un po' il maestro del racconto breve, sia fantastico, fantascientifico in particolare, ovviamente, sia anche giallistico, e ha scritto diversi romanzi, sia di fantascienza che gialli. Forse fra i romanzi, se si toglie Assurdo Universo, a detta generale sono forse meglio i romanzi gialli che i romanzi di fantascienza, ma nei racconti brevi e brevissimi di fantascienza il nostro naturalmente eccelle. Oh, non vi devo dire, questo ve l'ho già detto l'altra volta, ma lo ripeterò, che questa edizione dei massimi della fantascienza rilegata di Mondadori non è altro che la riedizione fedele della vecchia edizione tascabile paperback della appunto raccolta che si chiamava Cosmolinea B2, quindi ovviamente chi avesse, gli appassionati che avessero già quella, possono ovviamente fare a meno di spendere tutti questi soldi per comprarsi il volume rilegato, a meno che non siano patiti dei volumi rilegati. Passiamo un attimo al contenuto di questo volume. Qua ci sono i racconti, abbiamo detto, fra il 50 e il 72, e naturalmente la grande maggioranza è diciamo addensata tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, che fu il periodo probabilmente più appunto fecondo in cui comunque Brown più si dedicò a questi racconti. Ecco, direi che qua ci sono, nel primo volume vi segnalai vecchi classici come per esempio Arena, che raccontava la storia di questo duello fra l'uomo e l'extraterrestre, che poi è un po' diventato un archetipo per moltissime opere, comprese anche opere a fumetti successive. Qui abbiamo dei classici molto più classici, cioè abbiamo le cose piccolissime, le cose minime, i famosissimi micro racconti di cui tutti ricorderanno, penso, Sentinella, questa descrizione di questo essere, insomma, che sta di fronte al nemico. In una pagina e mezza ci viene data una bellissima lezione sia sui rapporti fra l'uomo e l'alieno, e sia sul rovesciamento delle situazioni, non vi dico nulla. Poi abbiamo cose un po' strane, tipo Topolino colpisce ancora, che sono cose che sembrano delle sceneggiature di fumetti o di serial radiofonici, forse più che televisivi, molto molto americani, molto, ma secondo me molto divertenti anche. E poi una serie di racconti degli anni, sempre di quegli anni lì, fra il 59 e il 62, se non mi ricordo male, non so, La prima macchina del tempo, Giochi di parole, Trucido, Abominevole, Inno di congedo, anche Et dona ferentes, molto bello. E poi variazioni, per esempio variazioni sulle grandi scoperte perdute, l'invisibilità, l'invulnerabilità, l'immortalità, oppure tutti i colori dell'incubo, incubo in bianco, in blu, in giallo, insomma è una, voi insomma sapete già com'è che lavora Brown, insomma lavora su una idea, la riesce a concentrare spesso in pochissime pagine. Immaginatevi, sarà un raccontino di 30 righe, non di più, 30 righe e moltissime spezzate, per cui insomma sono delle idee più che altro, delle idee che vengono, che però lui realizza in questo modo così, dandoci un po' questa l'idea di questo mondo appunto assurdo, come dice il titolo di questo suo romanzo, Assurdo Universo, What Made Universe, che è un po' una presa in giro da un lato e dall'altro una rivisitazione della fantascienza. Quindi è giusto che ci sia questa edizione ormai completata dei racconti di Frederick Brown, ripeto, tutti i racconti dal 50 al 72, edizione Mondadori rilegata, le pagine sono parecchie perché sono 404 più l'indice, quindi e per sole in fondo 29.000 lire. Ci risentiamo la settimana prossima. Seconda settimana. Vi segnalo un avvenimento che forse oggi come oggi non è più una novità, nel senso che ha già parecchie settimane, forse anche un mese, ma insomma comunque siccome si sono accumulati i testi sulla scrivania non sono riuscito a darvi notizia tempestiva di questa cosa. Dunque l'avvenimento che voglio segnalarvi è il seguente. è uscita l'edizione italiana della famosa e mitica rivista volume americana Research, ricerca. Dunque, Research, come gli appassionati dell'underground, più forse che quelli della fantascienza, del fantasy, sapranno, è appunto una rivista americana fondata da due giovanotti, ora non sono più tanto giovanotti, Juno e Vale, negli anni 60, credo, che è cominciata come fanzine, poi a poco è diventata un punto di riferimento sia con i suoi numeri monografici normali, sono tutti numeri di grande, diciamo, formato, sia anche con la collana di libri che con le edizioni che a poco questi due giovanotti sono andati costruendo negli anni. Ed è un punto di riferimento molto interessante, perché naturalmente ha intersecato molte volte, parecchie volte, la strada della fantascienza, dell'orrore, dei generi. Naturalmente c'è una intenzione molto politica in questi, politica in senso lato intendo, nel diciamo, lavoro di documentazione e di riflessione del gruppo americano di Research sull'underground. Vi segnalerò, per dirne una, per esempio, che una cosa che forse voi già sapete, l'ultima edizione, la nuova edizione del libro The Atrocity Exhibition, la mostra delle atrocità, è stata fatta proprio da questa casa editrice Research, con delle bellissime illustrazioni. L'edizione è stata tradotta già in italiano l'anno scorso, io ve l'ho segnalata, però purtroppo priva delle bellissime illustrazioni. Benissimo, adesso invece il gruppo, la diciamo rivista milanese di Decoder, ben nota anch'essa negli ambienti underground, cura con una, direi, meritoria e importante iniziativa l'edizione italiana di appunto Research. In che modo? Non è una vera e propria rivista, nel senso che non è una rivista di attualità. Giustamente Decoder ha deciso di riprendere i numeri storici, che sono numeri monografici di appunto Research, ha ridotto ovviamente il formato, per cui questa Research si presenta in tutto e per tutto come un libro. Il primo appunto numero, diciamo il primo volume, chiamiamola, di questa collana Research è dedicato a William Seward Burroughs, personaggio di cui già io vi ho parlato varie volte. Avrei potuto raccontarvi, speravo di potervi raccontare il film di Cronenberg, Il Pasto Nudo, perché era prevista 2 settimane fa una anteprima in quel di Bologna, ma i distributori hanno bloccato l'iniziativa, i soliti fetenti, quindi non ci hanno permesso di vederlo, quindi non vi posso dire ancora com'è. Comunque, torniamo invece a questo Research. Quelli di Decoder ci hanno messo un po' le mani, hanno tolto qualche materiale un po' vecchiotto, perché il numero era, se non vado errato, del 65, del 66, adesso non mi ricordo, quindi è parecchio vecchio, però erano tutti i materiali che in Italia mancavano. Ci sono diverse interviste di Burroughs, una che gli ha fatto Vale, uno dei direttori di Research. Ci sono alcuni inediti per l'epoca, oggi sono già usciti in volume, appunto sempre di, insomma, Burroughs. Che cosa hanno aggiunto? Decoder ha aggiunto 2 interviste molto interessanti, 2 conversazioni di Klaus Meck, che è un cyberpunk, un hacker tedesco, con Burroughs. Mi piace sparare, si chiama una, e l'altra è Cruise Control. E poi ha aggiunto, se non vado errato, basta, mi sembra solo queste 2 cose. E poi ha tolto qualche cosa. Poi c'è un'intervista a Brian Geisen. Brian Geisen è quel poeta morto da qualche anno, che è stato, diciamo, l'inventore del famoso metodo del cut-up, che poi ha utilizzato Burroughs molte volte nelle sue opere. Burroughs era un suo grande amico, hanno vissuto insieme a Parigi negli anni 50 e 60. Il metodo del cut-up consiste, come voi sapete, nel prendere a caso dei ritagli di giornale, fogli scritti, eccetera, tagliarli e casualmente incollarli su un foglio e vedere cosa diavolo esce. Molti libri di Burroughs sono scritti con questo metodo, che ovviamente sa un po', ricorda un po' il surrealismo, ricorda molto le cose. E quindi qua ci sono parecchi materiali sulla, per esempio, sulla passione di Burroughs per le armi, alcuni testi inediti, per esempio Easy Routine degli anni 40, che è stato edito soltanto nell'81 e adesso si trova dentro Interzona, edito da appunto Sugar, come sono comunque c'è. Sempre con la viene, è stata mantenuta la grafica originale, anche se in formato più piccolo rende un po' meno bene, Se devo fare un rilievo a questa edizione italiana, devo dire, è un po' la scarsa accuratezza delle traduzioni, l'italiano zoppica un po', insomma, adesso io non ho controllato tutto, ma devo dire che comunque non mi piace tanto, però insomma, sono cose che si possono leggere benissimo anche in un linguaggio zoppicante, insomma, ed è un libro che agli appassionati di Burroughs farà veramente, sarà indispensabile per loro, insomma, insieme alla biografia che vi ho già segnalato, uscita per Sugarco un paio di mesi fa, credo. Quindi si può affiancare questo libro che, ripeto, quindi Research, edizione italiana, William Burroughs, Brian Gysin. Le edizioni sono Shake Underground, sono quelle edizioni che fanno Decoder, ci sono 198, sono 200 pagine tonde per sole lire 20.000. La prossima uscita, non so tra quanto, però tra qualche mese, è l'altro famoso e mitico numero di Research dedicato all'altro grande vecchio dell'underground, o diciamo stimato underground, che è James Ballard. A risentirci la settimana prossima. Terza settimana. Dunque, mi è rimasto fra le cose uscite da un po', non da molto, forse da un mese o due, un romanzo della Nord. Vi sarete resi conto che io segnalo poche cose della Nord, perché la Nord, mi dispiace per loro, ma non fanno cose molto interessanti negli ultimi tempi. Questo si eleva un po' sopra la media, anche se vi dico subito non è un capolavoro, ma è una cosa che merita qualche oretta di lettura per qualche sera, ed è fa parte di questa collana nuova della Nord che si chiama Le Ombre, e in cui sono stati ospitati dei titoli, devo dire, non eccelsi, tranne il primo, che era Ombre del Mare di Fritz Leiber, che io vi segnalerei ovviamente ad occhi chiusi, e vi segnalai già a suo tempo l'altro anno, eccetera. Per il resto c'è questo Frank De Felitta, c'è altre robe, insomma, titoli veramente, devo dire, un po' quasi, non proprio ignobili, ma quasi, ma assolutamente inutili. Invece questo Fowler è interessante. Dunque, non fatevi fuorviare dalla diciamo copertina, perché come copertina ha due punti di riferimento per questo autore che non c'entrano, secondo me, assolutamente nulla. Cioè, parla di Ballard e di Stephen King, in realtà non c'entra niente. Però il testo è comunque invece interessante. L'idea qual è? Dunque, intanto si è ambientato a Londra nella metà degli anni Ottanta, quindi completamente contemporaneo. L'idea è quella, insomma, voglio dire, non è che sia, diciamo, di un mondo parallelo, non nel senso di un mondo diverso dal nostro, eccetera, ma di un mondo parallelo in senso fisico. Cioè, c'è la Londra normale in cui la gente cammina per le strade, eccetera, eccetera, e c'è una Londra dei tetti. Cioè, sui tetti di Londra si può andare, camminare, passare da un tetto all'altro con dei sistemi di fili, di carrucole, eccetera, eccetera, e c'è effettivamente una specie di popolo, di piccolo popolo dei tetti, di emarginati, gente scomparsa, eccetera, i quali vivono, non si sa bene da quanto tempo, sopra a questi tetti, e lì trascorrono la propria vita. Nei primi anni del secolo, poco o poco dopo, questa popolazione, dice l'autore, aveva raggiunto addirittura le 1000+ unità. Poi a un certo punto sono cominciate delle lotte interne, intestine. Quando il romanzo si apre, questi personaggi sono ridotti a poche decine e si combattono fra loro, fra due fazioni, tutte e due queste, diciamo, fazioni utilizzano una cosa un po' strana. Qui invece, ecco, allora, più che Ballard e King, come dice qua, io ricorderei invece un libro di cui vi ho già parlato, che sono I cancelli di Anubis, o Le porte di Anubis, non so più come è stato tradotto, di Tim Powers, un libro della Fanucci, anche questo tradotto pessimamente, ma questo qua che avete in mano, La città delle ombre si chiama, non è tanto mal tradotto, insomma, va già un po' meglio. Ecco, perché ci sono gli stessi ingredienti che c'erano nelle porte di Anubis, cioè vecchi culti egiziani, a volte anche molto sanguinosi, che sopravvivono. Però mentre le porte di Anubis di Power si svolgevano quasi tutto nell'Inghilterra, dell'Ottocento e non dell'altro secolo, ma nell'Inghilterra sotterranea, e quindi ricordava moltissimo cose come I misteri di Parigi, di Eugène Sue, cioè il mondo sotto, alto la, il livello, diciamo, stradale, quindi fogne, caverne, eccetera, eccetera. Questo è questo, come dire, insomma, romanzo aereo. L'idea mi sembra molto bella. Poi il suo romanzo è una, ha una struttura assolutamente tradizionale. Ci sono i soliti investigatori, l'investigatore ufficiale, simpaticissimo, ispettore di polizia, che sta con un sergente femmina, con un sergente di Scotland Yard, sempre, pare bellissima, e quindi c'è questa storia d'amore simpatica, così, e poi due, invece, i due investigatori, diciamo, dilettanti, che sono una specie di fallito, uno che lavora in una casa di produzioni cinematografiche fallito, e un'altra tipo un po' strana, una indiana. Bene, adesso non vi dico come va a finire, naturalmente, perché i due si infiltrano in questa scena, in una di queste due sette, quindi entrano dentro al gioco. Ci sono alcune sorprese finali che, ovviamente, essendo una specie di mystery, per quanto vagamente fantastico, non vi posso rivelare, per non togliervi il piacere della, appunto, lettura. È una cosa che vi raccomanderei come, diciamo, lettura ovviamente non troppo impegnativa. Allora, vi ho detto il titolo, che è La città delle ombre, l'autore è Christopher Fowler, è un libro inglese, infatti è proprio, ha questo stile misurato, è molto inglese, molto anglosassone, nel senso proprio britannico, insomma. E l'editore è l'editrice Nord, è un romanzo di media lunghezza, sono 280 pagine, 82 con i ringraziamenti, costa una roba ridicola, costa 19.900 lire, potevano mettere 20.000, ma loro già hanno questa cosa psicologica, quindi 19.900 lire. Allora, vi ripeto, Christopher Fowler, La città delle ombre, editrice Nord, e buona lettura e buon thriller con questo ultimo romanzo della Nord.